C'era ancora poca gente a Balbec, poche fanciulle. A volte ne scorgevo qualcuna ferma sulla spiaggia. Senza alcun piacere, benché molte coincidenze sembrassero comprovare che era la stessa a cui m'ero disperato di non potermi avvicinare mentre usciva, con un gruppo di amiche, dal maneggio o dalla palestra. Se era la stessa, e mi trattenevo dal chiederlo ad Albertine, la fanciulla che m'era parsa inebriante non esisteva. Ma non potevo raggiungerne la certezza, giacché il viso di quelle fanciulle non occupava sulla spiaggia uno spazio preciso, non presentava una forma permanente, contratto o dilatato o comunque trasformato com'era dalla mia attesa, dall'inquietudine del mio desiderio o da un benessere sufficiente a se stesso, dai diversi vestiti che indossavano, dalla sveltezza del loro passo o dalla loro immobilità. Viste da vicino, tuttavia, due o tre mi sembravano adorabili. Ogni volta che ne vedevo una, avevo voglia di portarla nel viale delle Tamerici o fra le dune, meglio ancora sulla scogliera. Ma sebbene nel desiderio, se lo si confronta con l'indifferenza, sia presente quell'audacia che è già un inizio, magari unilaterale, di realizzazione, fra il mio desiderio e l'azione, che sarebbe stata la richiesta di un bacio, c'era pur sempre tutto il bianco indefinito dell'esitazione, della timidezza. Allora entravo nel bar pasticceria, bevevo uno dopo l'altro 7 o 8 bicchieri di porto. Immediatamente, al posto dell'intervallo incolmabile fra desiderio e azione, l'effetto dell'alcol tracciava una linea atta a congiungerli. Svanite l'esitazione, la paura. Mi sembrava che la fanciulla sarebbe volata sino a me. Le andavo incontro, le parole mi uscivano da sole dalle labbra. Mi piacerebbe fare una passeggiata con voi. Perché non andiamo sulla scogliera dove nessuno ci disturberà, dietro il boschetto che protegge dal vento la casa smontabile in cui ora non abita nessuno? Tutte le difficoltà della vita erano appianate. Nessun ostacolo impediva più il congiungersi dei nostri due corpi, per me almeno. Gli ostacoli, infatti, non s'erano volatilizzati per lei, che non aveva bevuto un solo bicchiere di porto. E se anche l'avesse fatto, e il mondo intero avesse perduto anche ai suoi occhi qualsiasi realtà, il sogno lungamente vagheggiato che le sarebbe parso allora improvvisamente realizzabile non sarebbe stato, forse, quello di cadere fra le mie braccia. Non soltanto erano le fanciulle poco numerose, ma in quella stagione, che non era ancora la stagione, non si trattenevano a lungo. Ne ricordo una dal colorito rosso coleus, gli occhi verdi, le gote accese, il cui viso ambiguo e leggero faceva pensare ai semi alati di certe piante. Non so quale vento l'avesse portata a Balbec e quale altro la riportò via. La sua scomparsa fu così brusca da provocarmi un dispiacere che durò diversi giorni e che osai confessare ad Albertine quando capii che non sarebbe più tornata. Bisogna dire che parecchie erano fanciulle che non conoscevo affatto o che non vedevo da anni. Spesso, prima di incontrarle, scrivevo loro delle lettere. Che gioia quando la risposta mi dava l'impressione di un amore possibile! Subito dopo la nascita di un sentimento per una donna, e anche se questo non è destinato poi a realizzarsi, non riusciamo a separarci dalle sue prime lettere. Vogliamo averle sempre con noi, come bei fiori appena ricevuti, ancora freschissimi, che smettiamo di contemplare solo per aspirarne più da vicino la fragranza. È bello rileggere le frasi che conosciamo a memoria e andare a verificare in quelle che non ricordiamo parola per parola il grado di tenerezza di una certa espressione. Ha scritto la vostra cara lettera? Piccola delusione in tanta dolcezza, delusione che può essere attribuita o alla nostra lettura troppo affrettata o alla scarsa leggibilità della sua scrittura. Non dice la vostra cara lettera, ma nel vedere questa lettera. Il resto però è così tenero. Ne arrivassero anche domani di questi fiori. A un certo punto non ce ne accontentiamo più. Vorremmo confrontare le parole scritte con gli sguardi, con la voce. fissiamo un appuntamento e senza che lei forse sia cambiata, laddove ci aspettavamo, dalla descrizione fattaci o dal nostro personale ricordo di incontrare la fata Viviana, troviamo il gatto con gli stivali. Le diamo comunque un altro appuntamento per il giorno dopo, perché pur sempre lei, ed era lei che desideravamo. Ora, i desideri ispiratici da una donna che abbiamo sognato non hanno assoluta necessità della bellezza di questa o quella parte precisa della sua persona. Sono quei desideri semplicemente il desiderio di una certa creatura, vaghi come profumi, come lo storace era il desiderio di Protirea, lo zafferano il desiderio etereo, gli aromi il desiderio di Era, la mirra il profumo delle nuvole, la manna il desiderio di Nike, l'incenso il profumo del mare. Ma questi profumi, cantati dagli inni orfici, sono molto meno numerosi delle divinità ad essi care. La mirra è il profumo delle nuvole, ma anche di Protogono, di Nettuno, di Nereo, di Latona. L'incenso è il profumo del mare, ma anche della bella Dike, di Temi, di Circe, delle nove muse, di Eos, di Mnemosine, del giorno, di Dicaiosine. Quanto allo storace, alla manna e agli aromi, non si finirebbe più di nominare le divinità che li ispirano, tanto sono numerose. Anfiete ha tutti i profumi eccettuato l'incenso, e Gaia rifiuta solo le fave e gli aromi. Così era per me dei desideri. Meno numerosi delle fanciulle, si trasformavano in delusioni e tristezze abbastanza simili le une alle altre. Non ho mai voluto saperne della mirra. L'ho riservata a Jupien e alla principessa di Guermont, giacché il profumo del desiderio di Protogono, dai due sessi, dal muggito di toro, dalle molte orge, memorabile, inenarrabile, incedente con gioia verso i sacrifici degli orgiofanti. Ma presto la stagione fu al culmine. Ogni giorno c'era qualche nuovo arrivo e la frequenza subitamente accresciutasi delle mie passeggiate, che prendevano il posto dell'incantevole lettura delle Mille e una notte, aveva una causa cui era estraneo ogni piacere e che li avvelenava tutti. La spiaggia adesso era gremita di fanciulle e poiché l'idea suggeritami da Cotard, più che instillarmi nuovi sospetti, mi aveva reso sensibile e fragile da questo lato e attento a non lasciare che quei sospetti si formassero in me, non appena arrivava a Balbec una giovane donna, io mi sentivo a disagio. Proponevo le gite con le mete più distanti, perché Albertin non potesse conoscere e nemmeno, se possibile, vedere la nuova arrivata. Naturalmente, avevo ancora più paura di quelle di cui era evidente il genere equivoco o nota la cattiva reputazione. Tentavo di persuadere la mia amica che era una cattiva reputazione senza fondamento, calunniosa, nel timore forse inconfessato, ancora inconscio, che lei cercasse di stringere rapporti con la depravata, o rimpiangesse di non poterlo fare per causa mia, oppure che deducesse dal numero degli esempi che un vizio tanto diffuso non fosse condannabile. Negandolo in ogni colpevole, tendevo addirittura a sostenere che il lesbismo non esiste. Albertin adottava, a proposito del vizio di questa o di quella, la mia incredulità. No, credo che sia solo un atteggiamento che lo faccia per crearsi un tipo. Ma a questo punto quasi mi pentivo d'aver puntato sulla soluzione, perché mi dispiaceva che Albertin, un tempo così severa, pensasse che quel tipo fosse così lusinghiero, così seducente, da indurre una donna esente da siffatti gusti ad assumerne l'apparenza. Avrei voluto che nessuna donna venisse più a Balbec. Tremavo al pensiero che, essendo ormai all'incirca il periodo in cui dai Verdurin doveva arrivare Madame Putbus, la sua cameriera, di cui Saint-Loup non m'aveva taciuto le inclinazioni, potesse venire in gita sino alla spiaggia e se quel giorno io non fossi stato accanto ad Albertine, cercare di corromperla. Giungevo al punto di chiedermi, dal momento che Cottard non mi aveva nascosto quanto i Verdurin tenessero a me e come avrebbero desiderato, pur non volendo dare l'impressione, secondo le sue parole, di corrermi dietro, che andassi a trovarli, se non avrei potuto, promettendo in cambio di portare loro a Parigi tutti i Germain del mondo, ottenere da Madame Verdurin che con un pretesto qualsiasi avvertisse Madame Putbus della sopravvenuta impossibilità di ospitarla e la rispedisse indietro al più presto. Malgrado questi pensieri, e poiché era soprattutto la presenza di André a tenermi in allarme, la tranquillità procuratami dalle parole di Albertine non era ancora completamente svanita. Sapevo d'altronde che presto ne avrei avuto meno bisogno, dato che André doveva partire con Rosemonde e Giselle quasi nel momento in cui tutti arrivavano e aveva ormai soltanto poche settimane da passare con Albertine. Settimane durante le quali, del resto, Albertine diede l'impressione di organizzare tutto ciò che faceva, tutto ciò che diceva, in modo da distruggere i miei sospetti, se me ne restavano, o da impedire che rinascessero. Badava a non restare mai sola con André e insisteva, quando rincasavamo, perché l'accompagnassi fino alla porta e perché andassi a prenderla quando dovevamo uscire. André, peraltro, seguiva scrupolosamente la stessa linea, dando l'impressione di evitare Albertine. E questa apparente intesa fra loro non era il solo indizio del fatto che Albertine aveva messo sicuramente l'amica al corrente del nostro colloquio, chiedendole il favore di placare i miei assurdi sospetti. All'incirca in quei giorni si verificò al Grand Hotel di Balbec uno scandalo che non valse certo a mutare il corso dei miei tormenti. La sorella di Bloch aveva da qualche tempo una relazione segreta con un'ex attrice, relazione della quale presto non si accontentarono più. Essere viste aggiungeva per loro un tocco di perversità al piacere. Volevano esibire agli sguardi di tutti i loro giochi pericolosi. Cominciarono con delle carezze che tutto sommato si potevano ancora attribuire a un'intimità amichevole nella sala da gioco attorno al tavolo di baccarà. Poi si fecero più audaci. E infine, una sera, in un angolo nemmeno buio del salone da ballo, su un canapè, si comportarono con non minore licenza che se fossero state nel loro letto. Due ufficiali, che si trovavano assieme alle mogli, non lontano da loro, protestarono col direttore. Si credette per un momento che la protesta avesse qualche effetto. Ma giocava a loro sfavore il fatto che, venuti a Balbec da Netteholm, dove abitavano, per una sera, non presentavano alcuna utilità agli occhi del direttore. Mentre su Mademoiselle Bloch, magari a sua insaputa, e qualunque osservazione potesse rivolgere il direttore, aleggiava la protezione del signor Nissim Bernard. Bisogna spiegare perché. Il signor Nissim Bernard praticava al più alto grado le virtù familiari. Ogni anno prendeva in affitto a Balbec una magnifica villa per il nipote e nessun invito avrebbe potuto impedirgli di tornare per pranzo alla sua intimità domestica, che era poi, a dire il vero, la loro. Ma a mezzogiorno non andava mai a casa. Tutti i giorni a colazione era al Grand Hotel. Il fatto è che manteneva, come altri, una ballerinetta dell'opera, un impiegato abbastanza simile ai fattorini di cui abbiamo avuto occasione di parlare e che facevano pensare ai giovani israeliti di Esther e di Atalì. Veramente, i 40 anni che separavano Nissim Bernard dal giovane impiegato avrebbero dovuto preservare quest'ultimo da un contatto poco piacevole. Ma come dice con tanta saggezza Racine nei medesimi cori, «Dio mio, come cammina a passi incerti una virtù nascente!» E un'anima che ti cerca e vuole essere innocente, quanti ostacoli trova ai suoi disegni. Il giovane impiegato aveva un bell'essere, allevato, lontano dal mondo, nel tempio grande albergo di Balbec. Egli non aveva dato ascolto al consiglio di Joad. sulla ricchezza e sull'oro non fare affidamento. Forse s'era fatto una ragione dicendo a se stesso: i peccatori coprono la terra. Comunque fosse, benché lo stesso Nissim Bernard non sperasse in tempi così brevi, già il primo giorno, e fosse spavento, o per accarezzarlo, egli si sentì premere dalle sue braccia innocenti. E il secondo, quando Nissim Bernard portò il giovane a fare una passeggiata, il contatto contagioso alterava la sua innocenza. Da quel momento la vita del ragazzo era cambiata, anche se continuava a portare il pane e il sale, obbedendo agli ordini del suo diretto superiore, tutto il suo volto cantava: da fiori a fiori, da piaceri a piaceri, portiamo a spasso i desideri. Dei nostri anni passeggeri incerto è il numero. Affrettiamoci oggi a godere della vita. Onore e impieghi sono il premio di una cieca e dolce obbedienza. Per la triste innocenza, chi verrebbe a innalzare la voce? A partire da quel giorno, il signor Nissim Bernard non aveva mai disertato il suo posto a colazione, come avrebbe fatto in platea uno che avesse mantenuto una comparsa nella fattispecie, d'un genere assai caratterizzato e che aspetta ancora il suo Degas. Era un diletto per lui seguire nella sala da pranzo e sin nelle lontane prospettive dove, sotto il suo palmizio, troneggiava la cassiera, le evoluzioni dell'adolescente intento al servizio di tutti, e meno del signor Nissim Bernard da quando questi lo manteneva. Vuoi che il giovane corista stimasse superfluo testimoniare la stessa gentilezza a qualcuno del quale si credeva già abbastanza amato, vuoi che quell'amore lo irritasse, ovvero temesse che, una volta scoperto, gli facesse perdere altre occasioni. Ma persino questa freddezza piaceva a Nissim Bernard, in virtù di quanto dissimulava, o per atavismo ebraico, o per profanazione del sentimento cristiano, egli traeva un singolare piacere dalla cerimonia rassiniana, ebrea o cattolica che fosse. Se si fosse trattato d'una vera rappresentazione di Esther o di Atalì, il signor Bernard avrebbe rimpianto che il divario dei secoli non gli consentisse di conoscere l'autore, Jean Racine, al fine di ottenere per il suo protetto una parte di maggior spicco. Ma poiché la cerimonia della colazione non era opera di uno scrittore, s'accontentava di intrattenere buoni rapporti con il direttore e con Aimé, perché Legion Israelite venisse promosso alle auspicate funzioni di vicecapo o addirittura di capocameriere. Quelle di sommelier gli erano state offerte, ma Bernard l'aveva costretto a rifiutarle perché non avrebbe più potuto vederlo correre nella verde sala da pranzo e farsi servire da lui come un estraneo. Ora, questo piacere era così intenso da far sì che il signor Bernard tornasse tutti gli anni a Balbec e vi facesse regolarmente colazione fuori di casa, abitudini nelle quali il signor Bloch vedeva, quanto alla prima, una passione poetica per la bella luce, i tramonti di questa costa preferita ad ogni altra, quanto alla seconda, una mania inveterata da vecchio scapolo.